9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 14 di dicembre. Ovviamente la giornata politica ha un tema obbligato, l'attesa del conto, non tanto al Senato quanto alla Camera, uno più, uno meno, quali prospettive il governo che era partito dopo le elezioni con quell'amplissimo margine di maggioranza e si riduce a uno scontro di persone molto forte, a un indebolimento che comunque un punto dopo lunghissimi anni di vittorie alternanti ma sempre riconfermate poi di Silvio Berlusconi nelle urne, e questa volta però la lacerazione dei termini personali del rapporto tra Berlusconi e Fini di sicuro è una cosa che difficilmente con anche la più fervida immaginazione si riesce a immaginare essere pronta un domani a tornare alla tela e all'ordito di prima. In ogni caso vedremo oggi che cosa capiterà. È difficile immaginare in queste condizioni la permanenza o la formazione di un nuovo governo, la permanenza dell'attuale o la formazione di un nuovo governo in grado di dare una risposta efficace, rapida, decisa, energica ai problemi che sono ben noti. Su Radio 24 li sentite a ogni ora del giorno e della notte, perché sono innanzitutto i temi dell'economia, dell'impresa, della crescita bassa, delle 200.000 aziende che escono tra 3 settimane dalla moratoria bancaria, della riforma degli ammortizzatori del mercato del lavoro, eccetera. E però in tutto questo le cronache politiche da settimane, anzi da mesi, impazzano e impazziscono su ipotesi che sono tutte di là da venire: il terzo polo, un governo istituzionale, la chiamata di personaggi estranei alla politica. In tutto questo, mentre aspettiamo oggi inevitabilmente ciò che ci diranno gli esiti delle voto parlamentare, ho deciso di richiamare l'attenzione degli ascoltatori di Radio 24 su un punto che è un punto di fondo, per così dire, nel nostro sistema politico, perché è un po' di tempo a questa parte che pare che il bilancio dei 16 anni di Berlusconi porti un numero sempre maggiore di interlocutori, attori politici, osservatori a indurre chi legge i giornali, chi ascolta la radio, la televisione, a fare una riflessione che non è tanto una riflessione su Silvio Berlusconi, sul Popolo della Libertà, sui limiti di questo governo, sulle maniere in cui si sono esercitate le opposizioni a Berlusconi e a questo governo, ma è una considerazione invece di sistema. E quindi sempre di più ha iniziato a prendere piede e a radicarsi un'opinione che prima è diventata strisciante, poi è diventata più forte, ha preso misure di come un domani, o forse oggi stesso, in questa legislatura, tornare a fare un passo indietro molto importante rispetto a uno dei fondamenti che ha preso il sistema politico italiano negli ultimi 16 anni. E quindi ho deciso di dedicare questa puntata, per chi non l'avesse ancora capito, a la difesa del bipolarismo rispetto a chi pensa invece che si debba tornare a un sistema politico caratterizzato da una legge proporzionale, iperproporzionale. Sentite quanta attenzione si dà al tema leviamo il premio di maggioranza. Si confonde poi il sistema maggioritario e bipolare con questa legge elettorale, che è una legge elettorale che ha dei difetti evidentissimi, che sono terribili: la scelta dei parlamentari come liste di fedeli e camerieri, che basta vedere in quale ordine verranno messi nei collegi e si sa già che verranno eletti a tavolino. Però tuttavia difendere il bipolarismo e il maggioritario è un punto di vista che accomuna alcuni che hanno una grande responsabilità, quella di aver dato alle spallate, perché il sistema precedente, che ci ha regalato il debito pubblico, ci ha regalato Mani Pulite eccetera, fosse abbattuto con il referendum sul maggioritario con la preferenza unica prima. E quindi oggi, intanto che aspettiamo l'esito del voto in Parlamento, dedichiamo questa puntata alla difesa del bipolarismo e del maggioritario. Lo facciamo innanzitutto con chi 3 giorni fa ha lanciato un appello esattamente su questo, che mi ha colpito. Siccome è una personalità con la quale mi sono trovato a condividere i passaggi di fondo della costruzione del nuovo sistema rispetto a quello della Prima Repubblica, per dare più potere ai cittadini con leggi elettorali e poi sistemi di governo che non sono venuti, ecco che Mario Segni, col suo appello firmato due giorni fa insieme a Arturo Parisi e al professor Augusto Barbera, oggi è insieme a noi per commentare appunto questo aspetto. Io lo ringrazio, buongiorno Mario Segni. Buongiorno Giannini. Allora, perché lanciare questo appello e di che si tratta? Beh, l'ha detto lei molto bene, perché cresce in Italia, direi che più che presso la gente, presso il mondo, l'elite culturale, giornalistica e anche politica del paese, l'idea che questi 15 anni di bipolarismo in Italia vadano identificati con Berlusconi. Se oggi le cose vanno male, quindi bisogna cacciare il governo, si dice da alcuni, opinione giusta o sbagliata che sia, perfettamente legittima, e quindi, chiusa la fase berlusconiana, torniamo al paradiso della vecchia prima repubblica, del proporzionale e così via. Questa è un'opinione forte che si è avanzata e che soprattutto a sinistra, cioè soprattutto nel mondo che critica fortemente berlusconiana, prende un piede maggiore. Vuol dire che Repubblica, che è stata a suo tempo uno dei giornali più fortemente impegnati nel maggioritario, nelle grandi battaglie referendarie del 90, e mi pare in grande maggioranza schierata su questa posizione, che io vorrei dire: buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, abbiamo un problema, chiudiamo tutto qua. Ma secondo lei a rafforzare nel tempo, nell'ultima fase politica, queste posizioni, e prima ancora che tra gli attori della politica, per esempio a coloro che sono interessati a formare un terzo polo, è ovvio che chi è interessato a formare un terzo polo non gli si può chiedere di fare il bipolarista, e quindi torna a immaginare un proporzionale senza correzioni. Ma invece tra gli osservatori, per così dire, nei giornali, tra gli intellettuali, che cos'è secondo lei che in realtà, cioè tra coloro che non hanno un interesse immediato, diretto, per così dire, a essere protagonisti del confronto politico, che cos'è che ha tornato a rafforzare questa posizione? L'idea forse che sia sbagliato, anzi pericoloso, avere dei governi forti, perché gli italiani tendono invece di fronte a questa scelta a farne un cattivo uso, quindi hanno bisogno, per così dire, dei guardiani che mettano in grado gli italiani da non commettere l'errore di affidarsi a personalità e a governi forti. Ripeto, si tratti di Berlusconi o non Berlusconi domani, perché Berlusconi non è eterno, certo, i sistemi certo, bisognerebbe certo giudicarli nel lungo periodo. E la paura, il pessimismo e la rassegnazione. L'Italia non è adatta ad essere una democrazia moderna, alla fine è questo, e questi anni lo stanno dimostrando. Perché, scusi, io sono convinto che Bush è stato un pessimo presidente negli Stati Uniti, hanno pensato così la maggioranza degli americani, perché dopo due mandati l'hanno mandato largamente a casa con un bassissimo indice di consenso. Ma nessuno si è sognato in America di dire che andava cambiato il sistema. Hanno cambiato l'uomo, hanno cambiato il presidente, come avviene nelle democrazie consolidate. Ora, si rendono conto questi signori, che purtroppo sono nomi qualificatissimi del giornalismo, della cultura, dell'editoria e così via, che cosa significa tornare indietro di 20 anni nel mondo di oggi? Diciamo la verità, significa tornare ai governi che duravano mediamente 6-7 mesi, ai governi che erano in grado al massimo di galleggiare, ai governi che prima di prendere decisioni strategiche dovevano avere il consenso di 4, 5, 6 segretari di partito. Questa era la situazione, e vogliamo fare questo passo indietro in un mondo che molto più di 20 anni fa, quando noi iniziamo la campagna, oggi richiede governi forti, stabili, che possono decidere in pochi minuti. Ma io le faccio un esempio concreto: quando ci fu 2 mesi fa, mi pare la notte in cui i ministri del tesoro decisero l'intervento alla Grecia, mi ricordo che addirittura furono costretti, arrivarono quasi fuori tempo massimo, decisero alle 2 di notte perché i mercati di Tokyo stavano per aprire, sarebbe stato un crollo per l'euro. Beh, insomma, Tremonti si assumette la responsabilità in pochi minuti di stabilire una quota rilevante, 5 miliardi di euro per l'Italia come contributo. Ma lì ci pensa, se un ministro di 30 anni fa sarebbe stato in grado di fare questo, ma avrebbe dovuto fare 20 telefonate in Italia, 10 segretari di partito, 5 capi corrente, eccetera. E un governo così, in questa situazione, viene travolto. L'Italia non si può più, perché nessun paese al mondo si può permettere oggi di sopravvivere in un mondo durissimo come quello, senza governi stabili. Ora noi per paura di un altro Berlusconi, che in qualche modo il ciclo berlusconiano non so se stia finendo, ma finirà, per paura di un altro uomo forte. Insomma, noi ci stiamo precludendo la strada invece del progresso, la strada di un'Italia forte. Ma insomma, perché non bisogna avere fiducia nell'Italia, nel nostro paese? Perché non dobbiamo essere in grado di avere uno Stato forte e un governo che funzioni? Come le regole poi possono essere più diverse, come ce l'hanno in sostanza Inghilterra, Francia, Spagna e Stati Uniti, cioè tutte le grandi democrazie occidentali. Quindi è un atto di resa questa. Torniamo indietro, e governi che non contano niente, governi travolti, governi collegiali, governi di cooperativa, come si diceva una volta, e beh, certo, allora quelli grandi decisioni non ne prenderanno, non metteranno a rischio certamente le regole democratiche, ma diciamo la verità, condanneranno l'Italia ad essere di serie B. Come possiamo pensare di fronteggiare la crisi finanziaria nei prossimi mesi e nei prossimi anni senza un governo forte e un governo stabile? Allora ci ha rapidamente raggiunto anche in collegamento anche Arturo Parisi, malgrado il voto che si sta tenendo, il dibattito parlamentare eccetera, che ha confermato insieme a Mario Segni l'appello, e in questi pochi minuti in cui si può fermare con noi chiediamo anche a lui di darci la sua interpretazione dei tempi, per così dire, come e perché si è tornato a diffondere negli attori politici, negli osservatori, questa propensione per il proporzionalismo, per non dare agli italiani insomma la facoltà di scegliere, perché meglio evitare che si affidino a governi troppo forti, al netto, ripeto, del giudizio su Berlusconi, che dopo 16 anni sta passando un punto molto delicato della sua fase politica, e comunque che poi passa, mentre i sistemi di governo, i sistemi elettorali dovrebbero essere scelti per permanere. Allora, Arturo Parisi, come rispondere ai neoproporzionalisti? Beh, invitandoli a guardare come è cambiato il paese e invitandoli a valutare se questo cambiamento è positivo o negativo. Noi in questo momento nessuno riuscirebbe a immaginare il presente neppure il futuro se 8.000 sindaci concretamente non vigilassero sulla nostra vita quotidiana, se 100 presidenti di provincia, 105, se 20 presidenti di regione non assicurassero la guida di governi. Noi ci troveremmo esattamente con la stessa ansia con la quale ci troviamo in questo momento di fronte alla scomposizione della maggioranza di governo e della caduta di governo. Noi chiediamo che il percorso iniziato nel governo locale arrivi finalmente a compimento a livello nazionale, perché se questo non dovesse accadere, noi abbiamo paura che il trenino, dopo essere arrivato sullo spartiacque della montagna, regredisca, travolgendo anche i governi locali. Arturo Parisi, diceva prima Mario Segni che per ragioni anche comprensibili, per questi 16 anni di lotta contro Berlusconi, per così dire, e anche ma soprattutto forse a sinistra, negli organi di informazione vicini alla sinistra, che l'idea di tornare al proporzionalismo e alle mani libere, per così dire, sembra alla fine, dopo questi 16 anni di lotta contro Berlusconi, una specie di antidoto, perché almeno, siccome Berlusconi non ha mai potuto contare sul 51%, così saremmo sicuri dall'evitare che poi gli italiani tornassero ad affidarsi a uomini forti del centrodestra. Allora, a questa considerazione, che effettivamente è forte anche secondo me, la penso come Mario Segni, in una parte sempre più rilevante della sinistra, di giornali come Repubblica e così via, dal punto di vista di chi come lei, non è che ci siano mai stati dubbi da che parte stia in politica, che tipo di riflessioni interne al campo, per così dire, può opporre? Beh, noi come avanzando e rinnovando quell'appello ci siamo rivolti ai riformatori di tutte e due le parti, ma soprattutto a quelli che in questo momento si battono come me, perché la vicenda e la parabola di Berlusconi arrivi al compimento nel modo in cui deve arrivare, avendo presente che proprio nel campo degli anti-berlusconiani la confusione tra i due livelli, cioè tra la legittima determinazione a chiedere un passaggio di fase e quella che noi non condividiamo, di un ritorno all'indietro, tendono a sovrapporsi, e questo è quello che ci preoccupa in questo momento. Nel momento in cui mi appresto a votare ancora una volta contro Berlusconi, chiedo a quelli che votano contro Berlusconi assieme a me di non confondere sostanzialmente il berlusconismo l'acqua sporca, se mi consente, con il bambino tutto sommato appena nato della democrazia di indirizzo, della democrazia dei cittadini, della democrazia governante, quella che appunto ha consentito di riprendere il cammino e ha bene o male portato a una stabilità che vedeva sino a 15 anni fa la durata dei governi attorno a 10 mesi a raddoppiarsi a 20-21 mesi, qual è la media nella quale oggi ci troviamo. Allora, io chiedo un'ultima cosa all'artropolitica che poi ci deve lasciare. In molti dicono, ma come voi maggioritari, bipolaristi, dite così e poi in realtà il numero di formazioni politiche è sempre aumentato all'interno delle coalizioni. Le coalizioni sono sia nel centro-sinistra con Prodi, sia nel centro-destra puntualmente, come ancora una volta vediamo, rapidamente devono fare poi il conto con il fatto che le componenti interne si sfaldano rispetto all'impegno assunto insieme agli elettori e le coalizioni quindi deludono. Quindi il maggioritario bipolare prometteva questa stabilità e maggior durata, ma in realtà porta alla proliferazione dei partiti e all'instabilità. Io replico sempre dicendo, se mi permette, ecco, certo. Ho appena fatto notare che questo non è vero, meno male i nostri comuni in qualche modo sono in condizione di affrontare le tempeste, le continue tempeste. Ma la mia domanda a lei era un'altra, perché io faccio notare che a livello nazionale chi dice questo però ha sempre difeso con grande intransigenza il fatto che poi si continua a dare il rimborso elettorale ai partiti, che lo sappiamo ha continuato a essere la forma in cui c'è il finanziamento pubblico malgrado il referendum, però sotto la soglia dell'1%. E quindi io ho sempre fatto notare un sistema in cui c'è un sistema elettorale così, gli italiani scelgono e poi però in concreto si continua a strizzare l'occhio, perché in Parlamento sei preso, hai preso l'1% con la tua lista, te ne vai e fai un gruppo parlamentare, continui a prendere i soldi, perché di questo si tratta, induce davvero a essere più proporzionale che altro. Secondo lei il mio ragionamento è fondato o infondato, Parisi? Ma assolutamente fondato. Devo dire che noi viviamo nella contraddizione, che la contraddizione viene alimentata soprattutto da quelli che in questo momento fanno rilevare questo problema, e fuori dubbio, detto questo, il maggioritario governa semplicemente la traduzione dei voti in seggi, non impedisce che le persone poi arrivate in Parlamento si costituiscano in gruppi e diano continuamente vita a nuovi gruppi. Il problema è che il governo abbia immediatamente e direttamente un'investitura da parte dei cittadini, perché è solo questa investitura che impedisce e ci difende dalla tentazione di fare e disfare continuamente i governi alle spalle dei cittadini. Meno male il fatto che, come io mi auguro, Berlusconi cada oggi in Parlamento è figlio del maggioritario, perché costringe a un confronto palese che consente ai cittadini di chieder conto e di vedere in modo trasparente qual è la posizione che i propri parlamentari hanno assunto. Sinora la linea era quella opposta, si dice parlamentarista, in effetti si dovrebbe dire partitista. Sino a stamattina noi abbiamo visto moltiplicarsi gli appelli perché il voto fosse reso inutile da accordi extraparlamentari, proprio da quelli che si definiscono parlamentaristi. Ecco, io sono totalmente d'accordo con questa considerazione anche finale di Arturo Parisi, che pochi hanno fatto notare. Nella realtà, nel tramestio di questi giorni, e soprattutto il desiderio di tornare a il fatto che i partiti fuori dalle istituzioni siano gli attori di una vita politica e di una vita istituzionale, che a me a quel punto sembra molto meno trasparente anche della meno apprezzabile, per il punto di vista di chi ha perso le elezioni, situazione nella quale invece si resta coerenti a un'indicazione chiesta agli elettori, che gli elettori hanno dato. Io credo che la vita politica italiana ci abbia dimostrato nei decenni come la proliferazione dei partiti e come soprattutto partiti che decidono fuori dalle istituzioni e fuori dalla coerenza a un vincolo elettorale chiesto e impegnativamente difeso una volta che lo si è ottenuto dal voto, sia peggiore anche del più criticabile schieramento rispetto alle nostre scelte, che ha vinto le elezioni e che a quel punto governa, e fino a che la maggioranza deve governare in coerenza con un mandato elettorale. Ma no, meglio le mani libere, tornare al proporzionale, viva i partiti, viva il Parlamento libero. Domande da porre poi a Mario Segni, che ha lanciato insieme ad Arturo Parisi e al professor Augusto Barbera un appello per dire attenti a non confondere le idee, difendiamo il bipolarismo, il maggioritario, la scelta da parte degli italiani della coalizione, dei presidenti dei consigli, dei capi degli esecutivi. Ma prima ancora gli ascoltatori, abbiamo pescato al volo per un minuto Renato Mannheimer, buongiorno, grazie a Mannheimer. Buongiorno, e quindi, buongiorno a tutti. La domanda al sondaggista principe, per così dire, che non solo dal Corriere della Sera ma anche da Porta a Porta ha abituato molti italiani ad avere la risposta rispetto alle domande fatte agli italiani, ci deve dire nei suoi ultimi sondaggi se e come ha visto un spostamento nelle opinioni degli italiani intorno al bipolare, al maggioritario, al proporzionale, se anche gli italiani, come tanti politici e tanti osservatori, tendono ad avere nostalgia del proporzionale. Che dicono i sondaggi, Mannheimer? Dunque, i sondaggi hanno detto questo fino a poche settimane fa, cioè fino a poche settimane fa c'era sempre più voglia di proporzionale, allontanamento dai due partiti maggiori, voglia di una rappresentanza specifica per i propri specifici interessi e insoddisfazione per la politica di entrambi, PD e PDL. Negli ultimi giorni, con l'acuirsi della crisi politica, c'è stata una sorta di serrare le fila nei confronti del PD e PDL, cioè abbiamo rivisto crescere il PD e il PDL, tutte e due, e una piccola erosione delle forze minori, da FLI a Di Pietro, cioè a destra e a sinistra. Resta il fatto che la gente è insoddisfatta di questo bipolarismo, che bipolarismo non sembra, e vuole qualche cosa di nuovo e di diverso. Dove quindi la maggioranza dei totali di coloro che rispondono, al di là del non so e di quelli che dicono invece di avere le idee chiare, la maggioranza è per un sistema diverso dall'attuale, o la maggioranza, cioè la somma praticamente di coloro che... diverso dall'attuale. Naturalmente la gente non sa bene che sistema vuole, non si entra nel premio di maggioranza che sembra ingiusto comunque e nelle preferenze che sembra ingiusto non poter scegliere il candidato, ma certo emerge una forte insoddisfazione per il sistema attuale e una voglia di maggiore rappresentanza individuale. Rispetto all'inizio di legislatura, ancora 8 mesi fa, quando Berlusconi era ancora forte in palla, all'epoca c'era già questa tendenza, e quanto era forte nell'elettorato, oppure è proprio direttamente espressione di come è andata politicamente questa tendenza? C'era già, ma in misura molto minore. Man mano che la crisi politica si è acuita, è aumentata prima di tutto la voglia di cambiare sistema elettorale, anche perché se ne è parlato tanto, ben inteso, non che i cittadini stiano lì a studiare i sistemi elettorali, e adesso siamo arrivati al punto di una grande insoddisfazione legata prima di tutto ai partiti maggiori e di conseguenza al sistema elettorale, cioè non piacciono partiti così grandi e piacciono meno che in passato, non sembra più che siano fonte di bipolarismo ma solo fonte di inefficienza. Grazie Renato Mannheimer, perché l'abbiamo pescato mentre si stava spostando a Roma, grazie ancora. E quindi i sondaggi ci dicono questo. Sentiamo ancora alcuni ascoltatori, poi pensiamo con Mario Segni come dare una risposta a questa tendenza che però, come vedete, nell'opinione pubblica, anche non solo nella politica, non solo tra gli osservatori, non solo tra coloro che fanno l'informazione, c'è, e quindi ha bisogno di risposte concrete rispetto all'inefficienza che comunque viene dalla politica, è consegnata da questi mesi di crisi strisciante, di insulti, di degrado della politica, e quindi molti italiani pensano ma questo sistema ci aveva promesso altro. Sentiamo su questo come la pensa Alessandro, che ci chiama da Roma. Prego Alessandro, qual è la sua opinione? Buongiorno dottor Giannino, io sono assolutamente d'accordo con lei, va assolutamente difeso questo sistema bipolare, no? Però da cittadino puoi esprimere una sensazione disperante, perché poi ci si rende conto che di fatto Per arrivare a un sistema serio ci vorrebbe una riforma costituzionale che si capisce che non verrà mai. Allora io volevo chiedere a lei e ai suoi ospiti, perché no? Anche qua mi faccia dire, la riforma costituzionale ha sempre visto chi aveva perso le elezioni ed era minoranza in Parlamento e poi aveva invece l'appello al proprio elettorato in vista delle successive elezioni, ha visto far prevalere sempre considerazioni, mai dare una mano a un sistema che attualmente, siccome io ho perso le elezioni, può dare ancora più cardine e più strumenti nelle mani di chi invece le ha vinte, facendo prevalere in questi anni una tenace visione tribale su qualunque condivisione di regole istituzionali, perché tutte le volte che si è tentato un tentativo istituzionale di cambiare la forma di governo, insomma, oltre che la forma Stato, dopo aver fatto la legge elettorale, è sempre successo questo. Questa è la storia della bicamerale in avanti, della riforma costituzionale perse le elezioni successive. Io in questo però so di essere minoranza, do un giudizio sulla qualità dei leader politici e delle coalizioni politiche, non sulla scelta data agli italiani, che secondo me bisogna, che siamo d'accordo nel fatto che hanno la maggiore età, non si può dire agli italiani se votate Tizio o Caio vuol dire che dovete essere internati o dovete essere diffidati dal Consiglio dei Guardiani che se la vedranno in Parlamento. Mi perdoni se l'ho interrotta, perché così adesso può continuare il suo ragionamento sul fatto che questa faccenda, che la forma di governo noi non l'abbiamo saputa adeguare alla legge elettorale, è vero, però ci sono delle colpe, prego. Sì, io, a me pare una politica veramente arcigna, cattiva proprio nei confronti dell'elettore, perché sono 15 anni che io, elettore, do sempre voti di conferma al sistema bipolare che si è sempre più manifestata nella volontà popolare, eppure ancora oggi siamo a discutere del proporzionale. Io volevo chiedere questo, allora, sarebbe possibile ipotizzare un impegno morale da parte dei futuri candidati nella difesa del sistema bipolare? È possibile ipotizzare una difesa, un impegno morale, non dico legale, cioè, tanto voglio dire, la Costituzione gli permette di fare questi giochini, no? Che i candidati almeno si impegnino moralmente nei confronti dell'elettore a non cambiare casacca. Grazie Alessandro, questa è una richiesta. Intanto nel frattempo una novità che viene dalla cronaca: il gruppo di Futuro e Libertà ha deciso di astenersi rispetto al voto di fiducia, lo ha detto Pasquale Viespoli, capogruppo di Futuro e Libertà al Senato, intervenendo in aula. Sentiamo ancora Stefano da Roma, invece, come la pensa? Ecco, guardi, buongiorno intanto a tutti quanti e intanto faccio gli auguri alla parte sana del paese, quella che paga le tasse e che tira avanti questa baracca. Dunque, mi ha dato questa notizia che il gruppo di Futuro e Libertà ha cambiato un'altra volta opinione, un'altra volta idea. Io leggo un'agenzia e questa no, è... va bene, ma no, io guardi non mi meraviglio, ho 57 anni, sono un rappresentante di cittadinanza attiva, di una delle associazioni che in Italia cerca di un pochino di impegnarsi. Allora, il discorso è questo: noi, lei parla di bipolarismo, ma secondo lei... Lei però, un secondo però, le regole vigenti in Senato, lei lo sa che l'astensione vale come voto contro, quindi... Sì, però, ecco. Secondo, il segnale politico è chiaro che è graduato, ecco. Chiaro, il segnale politico è graduato. No, benissimo. Allora, diceva. Allora, ecco, le dicevo questo: secondo lei quante persone in Italia sono in grado di capire il concetto di bipolarismo, di proporzionale, di maggioritario? Ma lei dice poche? Pochi, non lo dico io, guarda, lo dice uno studio a livello mondiale che è stato condotto sulle democrazie, va bene, hanno partecipato 176 paesi, dovrebbe saperlo questo, e l'Italia si è classificata intorno alla 115esima postazione come grado di civiltà. Lei capisce? Cioè soltanto il 20% degli italiani hanno un concetto di democrazia, che poi noi non siamo una democrazia perché lei me lo insegna, non abbiamo primari, ci impongono. Aspetta un secondo, lei vuol dire che siamo immaturi, cioè che gli italiani restano immaturi? Sì, gli italiani sono immaturi, innanzitutto è proprio una civiltà ancora da formare. Noi a scuola studiamo l'educazione civica, io da ragazzino sì, me la facevano studiare, sì, quando c'era ancora una parvenza. Capito? No, ma questo l'ho capito. Ma la conclusione è che questo basso livello di preparazione rispetto anche alle Questa è una cosa proprio scontata. Ma sul tema di oggi pensa che questo induca più successo a chi dice proporzionale a partiti, oppure invece a chi difende l'idea no, si sceglie con chiarezza gli italiani e poi si vota in coerenza? Secondo me bisogna scegliere con chiarezza, cioè innanzitutto bisogna dare la possibilità agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, come si fa in America, come si fa in Francia. Ci vogliono delle fasi di preparazione innanzitutto, perché il cittadino deve essere preparato con la televisione, con voi, con i giornalisti, la gente deve essere pronta a diventare democratica, perché sì, in Italia non però, siamo democratici. D'accordo, vabbè, io su questo adesso la interrompo perché ho capito, non, però guardi, io invece diffido profondamente di chi pensa che l'informazione sia un grande ministero della cultura democratica popolare, perché siccome poi messa così, ovviamente ciascuno pretenderebbe che fosse il proprio indirizzo quello a cui bisogna formare gli italiani. Io penso che è vero che noi abbiamo delle lacune, si vede dalle graduatorie PISA scolastiche a qualunque graduatoria comparata. Non credo affatto che gli italiani abbiano connaturato nel proprio DNA una incapacità invece di saper esprimere scelte precise. Vedo nella vita di milioni di italiani una linearità e una responsabilità in quello che fanno che non vedo in altrettanta misura nella politica. Quindi credo poco a questo DNA degli italiani che sono, per così dire, tutti Machiavelli, guicciardiniani, pensano solo al proprio utile, a fregare i vicini, non hanno alcuna idea del valori civili condivisi. Mi sembra, è un'immagine che la cultura nella quale sono cresciuto da giovane, lo ammetto, una cultura azionista, risorgimentalista, minoritaria, secondo me ha avuto il difetto di continuare ad alimentare. Come dire, italiani, voi non siete all'altezza delle grandi civiltà, per fortuna che ci sono le minoranze illuminate che vi sapranno guidare. Ecco, io alle minoranze illuminate che poi fanno i propri interessi e in generale tenevano le mani libere in Parlamento e hanno prodotto il debito pubblico, le malversazioni delle troppe presenze pubbliche nell'economia eccetera, non credo più, perché credo che quella sia stata una contraffazione. C'è stata una generazione di grandi padri fondatori della Repubblica e di minoranze intorno a loro, e questo riguardava tutte le famiglie politiche, da quelle cristiane a quelle socialiste a quello comunista e alle famiglie laiche, quindi i quattro grandi filoni del patto della Repubblica. Ma poi, di fronte all'esplosione della presenza dello Stato nell'economia, nella vita pubblica, negli anni 60, prima ancora degli anni 70, dell'ideologia dello scontro tra destra e sinistra, dello scontro internazionale, la cosa è degenerata, e credo che sia degenerata molto più nella politica che nella testa o nel DNA o nella cultura degli italiani. Almeno questa è la mia personalissima visione. Quando sento dire che io come giornalista, come conduttore della trasmissione, dovrei sentirmi impegnato in un grande programma di formazione, dico che io non posso essere il formatore delle coscienze, credo poco a questo, devo tentare di parlare dal mio punto di vista dichiarando qual è, ma dei dati che vedo. Ora noi abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale e poi lasciamo a Mario Segni tutta la conclusione della trasmissione per commentare questi spunti, quello che ci ha detto Mannheimer, quello che succede nella politica di oggi, tornando a questa cosa sulla minorità o sulla serietà degli italiani, perché in definitiva è la minorità degli italiani che chi ha in testa chi dice proporzionale a mani libere, perché alla fine i partiti sapranno scegliere meglio degli elettori come dare risposte all'evoluzione della situazione politica, mentre invece è affidandosi proprio alla ragionevolezza e alla maggiore età degli italiani chi dice invece che devono scegliere loro e bisogna restare coerenti con sistemi adeguati a quello che loro hanno scelto. I maggioritari fanno una scommessa sulla ragionevolezza e la maggiore età degli italiani. I proporzionalisti è come se dicessero: italiani, ci pensiamo noi a tenervi a bada. Come si era rafforzata la richiesta di un sistema diverso, e poi ultimamente di fronte al muro contro muro finale, quindi con un chiaro atteggiamento di traduzione di quello che arriva dalla politica, gli italiani sembrino un pochino di nuovo rischierarsi a favore del bipolarismo. Però di fronte a chi dice non ha funzionato e forse gli italiani non sono adatti, lei come replica? Ma attenzione, anch'io sono fra quelli che dice Mannheimer che vogliono cose diverse e soprattutto che vogliono una legge elettorale diversa. Perché qui bisogna ricordare agli italiani che questa legge elettorale schifosa, quella che c'è adesso, che ci dà la lista bloccata, è stata fatta contro i referendari, contro le nostre riforme. Sembra che adesso ce ne dimentichiamo. Questa legge è stata promossa da Casini e dal suo partito. cioè da quello che oggi più di tutti gli altri ne grida lo scandalo e la vuol cambiare, e addirittura vuol fare un governo per cambiare la legge elettorale. Non c'è stato ancora nel dibattito televisivo e radiofonico qualcuno che si sia alzato e gli ha detto: scusi onorevole Cassini, ma questa legge nasce da lei e dal suo partito, è giusto cambiare idea, ma allora lo dica, non dia la colpa, non è questa la legge dei referendari. Incontro questa legge siamo stati pochissimi, io, Arturo Parisi, Bordon, De Benedetti, Franco De Benedetti, altri che abbiamo passato le notti davanti a Montecitorio con i cartelli: questa legge è contro di noi, è contro la volontà dei cittadini, perché ha cancellato il referendum del 93. Gli italiani purtroppo dimenticano con grande facilità. Questo è un frutto delle manovre partitocratiche contro la legge referendaria. Questa è la realtà di oggi. Quindi è giusto che gli italiani siano scontenti di come funzionano oggi le cose e che vogliano cambiare soprattutto la legge elettorale. Ma questi non sono i frutti del referendum e del maggioritario, sono i frutti della partitocrazia che ha messo i bastoni fra le ruote. Questo va detto. Dopodiché ci sono molti partiti, ha detto qualcuno, è stato osservato, sì è vero che ci sono molti partiti, ma proviamo a pensare cosa succederebbe se in un domani, finita l'era berlusconiana, prima o poi finirà, si tornasse al proporzionale. Ci sarà ancora qualcuno che tiene in piedi un 20-30-40% di un elettorato moderato? Difficilissimo. E io credo che allora noi andiamo di fronte a una diaspora. Noi rischiamo veramente un Parlamento che è una specie di dieta polacca, con decine di partiti frammentati, con una situazione terribile di ingovernabilità. Già prima di allora, col proporzionale, anche questo va detto a chi critica il potere di oggi dei piccoli partiti, in vecchio sistema che pure aveva grandi partiti come la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, il governo è stato guidato da un partito per un certo punto del 3%. Patolini, persona rispettabilissima, con un partito del 3%. Tutta la vicenda dei governi Craxi, peraltro importanti, era guidata da un partito che aveva il 10%, quindi non è che quel sistema poi premiasse le scelte degli elettori, quel sistema premiava le scelte dei partiti. Io credo che invece gli italiani, qui sono più ottimista del nostro amico Romano, mi pare di Cittadinanza Attiva, tra l'altro Cittadinanza Attiva è una, tra l'altro un'organizzazione che si è battuta con noi in tutti i referendum. Sono più ottimista, certo, in particolari tecnici gli italiani, come tutti i popoli, non li capiscono, sono complicati, ma sono di fronte alle scelte di fondo. Io credo invece che un'idea precisa ce l'abbiano, e su questo io sono ottimista. Io addirittura dico che se qualcuno veramente vuol cambiare sistema, ma non solamente mettere bastone fra le ruote e fare pasticci, ma tornare puramente al proporzionale, avrebbe il dovere morale di chiedere agli italiani, in qualche modo si possono fare i referendum particolari con leggi speciali, se vogliono tornare indietro, perché sarebbe una svolta storica, bisogna rimettersi a loro. E io credo oggi, tuttora, sono convinto, forse che mi sbagli, che se gli italiani fossero di fronte a un quesito chiaro: volete un sistema in cui governano i partiti o gli uomini scelti direttamente dai cittadini, perché poi questo è il punto fondamentale, oppure volete un sistema in cui i governi vengano fatti e disfatti dai partiti dopo le elezioni? Beh, io credo che ancora oggi gli italiani siano più che mai convinti che la strada del futuro è la strada del bipolarismo, cioè della scelta di governo dei cittadini, diciamolo così. Io pure ho questa convinzione. Devo dire che la stragrande maggioranza dei messaggi, per quello che può valere, ricevuti con gli sms e anche delle telefonate, vanno in questa direzione. Sentiamone ancora uno o due almeno finali. Giovanni, che ci chiama da Bergamo, come la pensa su questo punto? Buongiorno, la penso proprio come ha detto adesso. Noi non siamo stanchi del sistema bipolare, noi siamo stanchi di questi politici, ci hanno stancato, non sanno più cos'è la realtà, sono lontani anni luce dai problemi dei cittadini. Che sia bipolare, noi la nostra legge elettorale l'avevamo votata, loro l'hanno cambiata a loro piacimento per riuscire a rimanere dentro il palazzo. Noi siamo stanchi di loro, se ne devono andare a casa. Ecco, il punto di Giovanni, detto con passione, però è un punto su cui vi invito a riflettere: confondere i giudizi su chi guida un governo, se la si pensa diversamente, o sulla modalità con cui l'opposizione fa l'opposizione, se si è votato per la maggioranza pro tempore, confondere quei giudizi con i giudizi sulla bontà di una scelta affidare agli italiani la scelta di un governo, questo secondo me è classico di una cattiva politica, di una cattiva informazione. Io lo trovo molto diffuso. Sentiamo Giuliano da Padova ancora come la pensa al volo, sì, rapido. Posso dire un'ultima cosa? Come no, facendo. Come no. Allora, Giuliano, è caduta la linea, se andiamo direttamente su Mario Segni. Senta, io ho fatto prima un appello e un rimprovero alla sinistra, alla sinistra, perché Parisi è sinistra, è più referendario e maggioritario di noi, ma c'è così tanti altri, ma insomma a una certa area della sinistra che in passato è stata convintamente in questo modo e poi invece adesso ha cambiato idea. Devo dire che lo stesso appello però lo devo fare a Fini e al suo gruppo. Ah, per carità, certo. Perché Fini ha per me dei grandi meriti, ci ha sostenuto, è stato forse uno di quelli che ha sostenuto di più le battaglie referendarie, apertamente, pubblicamente, in tutti i modi, ma queste ultime sue posizioni mi sembrano assolutamente in contrasto. Sì. Vorrei dirlo per esempio a Dalla Vedova, che è stato uno dei più convinti, insomma, la legittimità su alcuni punti, di alcuni tratti della politica di Berlusconi che dicono loro, io la condivido in pieno, ma da questo non si può trarre la richiesta allora torniamo all'indietro, perché questo è veramente un delitto contro gli interessi dell'Italia ed è un tornare indietro, anche un rimangiare tutto quello che hanno fatto. Allora, con Mario Segni, con Arturo Parisi e ricordo anche Augusto Barbera, a cui dobbiamo tutti tanto, coloro che anni fa insieme a Mario Segni hanno cambiato le regole della Prima Repubblica, tornando a dire per una volta ottenendolo i cittadini decidano a tutti i livelli chi deve governare come. Noi minoritariamente continueremo in questa battaglia. Chi vi dice che comunque la pensiate su Berlusconi, che per liberarsi Berlusconi bisogna tornare ad avere le mani libere in Parlamento, mente, pensa solo a fare più affari, pensa solo a fare della politica il mercimonio che ha portato al debito pubblico italiano. Io penso che battersi con grande trasparenza per l'appello lanciato da Mario Segni, Parisi e Barbera significa difendere il meglio di questi anni, che è stato dare la parola agli italiani, che è sempre una buona scelta, perché gli italiani hanno buon senso e non è affatto vero che vanno diffidati da loro stessi, da politici che sono meglio in grado di capire che cosa bisogna fare. Vedremo oggi la conta dei voti e per il resto a domani.